la versione di Oscar Giannino. This is the end. Giocare ascoltatore, buon pomeriggio, buon 21 di ottobre, lunedì, sono le 16.37, 12 secondi, quindi abbiamo sempre meno tempo. Oggi chiamate 800 24 00 24, se avete domande da fare a un esperto che ora subito vi presento, per tutta la parte fiscale di quello che avete letto della nuova manovra. Quindi è più pesante o meno delle precedenti imposizioni quella sugli immobili? Perché pagare in IRPEF gli alloggi sfitti? Come è davvero se... e quando entreranno in vigore le minori detrazioni dal 19% al 18% il prossimo anno? Non sono più retroattive, pare, ma insomma cerchiamo di capirle meglio. Un po' di tutte queste cose in pochi minuti. Vado subito a presentarvi il nostro ospite, il mio esperto fiscale, per chi mi segue da anni, preferito, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a Tor Vergata, a Roma, all'Università di Tor Vergata, presso Giurisprudenza. Buongiorno e grazie, professore. Salve, buongiorno. Allora, cominciamo subito. Da quello che ha capito lei, la contesa di questi ultimi giorni su la nuova imposta, servizi e componente patrimoniale degli immobili. E ha ragione o ha torto chi dice, il Tesoro ieri ha detto, ha torto chi dice che si paga di più sia sul 2013-2012, e al di là di questo, che lo capiremo solo, dorme alle mani, è abbastanza soddisfatto di questa nuova imposta che mette insieme criterio patrimoniale, reddituale, servizi divisibili e indivisibili, che non ha uguali da quello che abbiamo capito in nessun paese avanzato, secondo lei? Ma è quella di prima, con i nomi cambiati, perché prima c'è la componente di imposta, cioè paghi perché sei ricco, relativamente ricco, e anche nella casa dove abiti tu esprimi ricchezza, e poi c'è la componente di tassa, il principio del beneficio, perché fai spazzatura, usi l'illuminazione pubblica, ci sono le fogne, i tombini, quando piove smaltiscono, e quindi quello devi pagare teoricamente anche se sei un inquilino. Sono sempre le stesse cose, esatto. Gli si cambia nome perché così magari cambiandogli nome si può dare soddisfazione a qualcuno che dice abbiamo messo nei nostri programmi politici che questa cosa venga… Che l'IMU su prima casa non c'è più, anche se poi il totale del gettito sarà uguale, mettiamo insieme… Capito, quindi sì, però il totale del gettito sarà uguale, ma… spostato su altri, cioè in effetti era meglio. Infatti, anche sugli inquilini? In parte sì, ma quelli avrebbero comunque pagato l'imposta sui servizi. Pagare l'imposta sui servizi. Quindi l'inquilino fa spazzatura, è giusto che paghi, non è ricco, ma butta le bottiglie d'acqua minerale, è giusto che paghi. Però così si dice che per la parte patrimoniale della nuova imposta pagheranno anche quelli che erano esenti anche dalla prima IMU, cioè sugli immobili, quelli non proprio per ricchi, ma dei più poveri. Cioè tutte le prime case... è giusto che, esatto, la prima, cioè, è, no, ma non stiamo parlando se è giusto o meno, stiamo spiegando a tutti che funzionerà così, perché una componente patrimoniale ci sarà su, cioè, tutti. Basta dire, ecco, caro signore, tu c'hai una casa, ci vivi, però questa casa è anche ricchezza, ci puoi mettere un mutuo sopra, se ti puoi vendere la nuda proprietà quando avrai raggiunto i 98 anni e vorrai pagarti la badante, ti potrai vendere la nuda proprietà, avrai qualche centinaia di migliaia di euro che invece l'inquilino non avrà. Correttissimo, mi pare solo chiaro che lo dica lei, se no poi io sono supposto di farlo per polemica politica, che appunto sulla prima casa la parte patrimoniale ci sarà, giusto così o meno, chi è in ascolto si faccia i suoi conti se valeva la pena per un anno perdere tutto questo tempo sulla prima casa. Ma magari gli si dà la franchigia, quello che si doveva fare, si può dire va bene. Questo spetterà ai comuni, facciamo un forfè, perché un po' è un bene primario, certo, e un po' è un bene patrimoniale, quindi bastava, invece di fare tutto quel macello di proclami politici, si portava la franchigia da 400 euro a 800, insomma quanto basta, ci si metteva tutti d'accordo e non cambiavamo i nomi alle stesse cose. E non facevamo tutto questo casino, bravo, diciamo così, soprattutto, forse avevamo anche più tempo per dedicarci a cose più utili per il rilancio dell'economia, ma questo sì, lo dico io. Come ognuno deve andare in conferenza stampa e dire ho vinto okay, io. Ok, allora, spieghiamo invece perché dal suo punto di vista può avere un senso, oppure se non ce l'ha, utilizzare per aumentare le entrate la risottoposizione in IRPEF sugli immobili sfitti. Qui c'è una grande polemica tra i nostri ascoltatori, perché i più dicono: ma come, io se li affitto non becco per ritardo di pagamenti della gente che sta male l'affitto, se lo tengo sfitto ci devo pagare l'IRPEF, insomma cornuto e mazziato, perché rimetterlo in IRPEF l'appartamento sfitto? Allora, io qui ci ho fatto un paio di post su in blog Fondazione Studi Tributari, cioè ci ho scritto tre per dire che è un'assurdità, allora, in primo luogo è assolutamente, quindi in prima battuta è un'assurdità, però è migliorata, nel senso che pare che le seconde case, cioè quelle, diciamo, le case di vacanza, dove è naturale che si vada un mese l'anno se ci si va, quelle stanno fuori perché è chiaro che te le usi te. Sì. Su quelle urbane invece c'è un minimo di sospetto contro essenzialmente l'affitto in nero. Sì. Ma si dice, allora tu forse se non la occupi tu, non la dai a tuo figlio, registriamo le cose positive, se no ci dicono solo che parliamo male, facciamo certamente il sensazionalismo, perché è stata proposta anche una ridefinizione della prima casa dove finalmente se la do a mio figlio o a mio padre, questa torna ad essere prima casa. Quindi non è sottoposta al ritorno all'imposizione in IRPEF, in quel caso. Che non sarebbe sottoposta al ritorno di imposizione in IRPEF. Allora, dice, se inspiegabilmente c'è una casa urbana fitta per molto tempo, è difficile. Allora, io se ti becco che l'affitti in nero ti chiedo l'affitto in nero, però comunque per non sapere né leggere né scrivere ti chiedo la metà della cedolare secca, che come se fosse affittata, come se fosse, cioè la metà della rendita capitale era imponibile, mi sembra. Però qui restiamo nel caso che qui è pieno di appartamenti sfitti, lo sappiamo, nelle grandi città, per via di come vanno le cose nell'economia reale. Ammettiamo, il margine di ingiustizia di questa cosa è molto elevato. È molto elevato, io ci ho scritto cose molto, perché in realtà la vera ragione per cui la gente un po' se li tiene sfitti, per uno cerca di venderli, due non ha la certezza della proprietà se li affitta, magari registra il contratto, poi non lo pagano e ci deve pagare lo stesso, come dicevamo prima, no? Allora c'è una però bisogna fare qualcosa contro le case chiuse, altro che la legge Merlin, no? Le case chiuse, quella appunto, sottratte al mercato, bisogna cercare un pochino, quindi se la vogliamo chiamare patrimoniale mascherata, quando si diceva sì, ma perché è una patrimoniale mascherata da reddituale, cioè io in questi articoli feroci dicevo, ma io sono disposto anche a pagarla sulle mie case al mare, però me la devi chiamare patrimoniale, perché se me la metti sul reddito, chi ha un reddito basso paga due spiccioli, chi ha un reddito alto, ahimè, che ci si arriva subito all'aliquota marginale più alta, allora dici il reddito per pagare la patrimoniale ce l'hai perché c'hai il reddito, allora appiccicandoti sopra la rendita catastale io ti faccio pagare di più. Dico, in un momento di lacrime e sangue uno ci può pure stare, cioè è un collegamento, siccome tutti hanno detto l'IMU va collegata col reddito, l'IMU va collegata col reddito, l'IMU non si può collegare col reddito. Sono d'accordo, perché una patrimoniale è una cosa, bravo. Bravo, allora ci dobbiamo fermare qua e ripartiamo dopo l'informazione stradale tra pochi secondi con una domanda: ma perché le clausole di salvaguardia per far tornare i conti lo Stato li fa solo con maggiore entrata fiscale, cioè diminuendo per esempio le detrazioni dell'aliquota 19% per le spese per l'istruzione o per quelle sanitarie, e non fanno mai clausole di salvaguardia in cui ci sono la diminuzione automatica della spesa, come dovrebbe essere l'ABC, e forse sarebbe anche più incentivante per la politica evitarla, visto che la spesa la tagliano molto poco. La la versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:47, 42 secondi. Ascoltatori ci mandano degli sms e dicono: ma come, nella stessa manovra in cui si passa da 18 anni a 5 anni il regime di ammortamento per i crediti inesigibili delle banche, cioè si fa un grande favore alle banche e in più le si ricapitalizza aumentando il valore delle quote che alcune di loro importanti detengono della Banca d'Italia, e poi noi scopriamo che paghiamo più tasse anche sugli immobili e così via. Questo è uno degli aspetti che vedremo della legge di stabilità in Parlamento. Torniamo alla domanda: perché le clausole di salvaguardia automatiche, quelle pluriennali, che la politica scopre sempre alle finanziarie quando ce l'hanno già nella tabella del DEF, perché sono appunto già stabilite pluriennalmente, sono fatte qui in aumento di entrata e non tagli di spesa, secondo il professor Raffaello Lupi? Beh, perché se questa è progettata per salvaguardare dall'inefficacia del taglio delle spese, poi è chiaro che deve andare, cioè, sulle entrate. Lo danno, cioè, per scontato, dice, per così dire. Se non va bene il taglio della spesa, vuol dire che il taglio della spesa non l'ho saputo fare. E allora devo andare dall'altra parte. Cioè, allora, prima di vedere come e se si aspetta che funzionino, con quali effetti sociali le detrazioni se scatteranno, io ricordo a tutti che spesa pubblica sul PIL, Italia 50,6%, oggi è uscita il reassessment, le serie assestate dell'Eurostat, Germania 44,7%, 6 punti di PIL in meno la Germania, non proprio un paese dove non c'è lo Stato e non c'è il welfare. Che effetti avranno la diminuzione dal 19 al 18% delle detrazioni sui lavoratori, sull'economia reale, secondo lei? Almeno abbiamo strappato a casa che non è più retroattiva sul 2013, quindi vale per le dichiarazioni sui redditi 2014, ma queste detrazioni sono cose importanti per milioni e milioni di contribuenti. Beh, è un effetto di spesa sanitaria che sarà meno incentivata, cioè sarà meno incentivato andare a farsi l'analisi per conto proprio piuttosto che andare alla ASL. Già 19 era basso, lo portiamo al 18, uno può dire che quelli che pagano la sanità privata sono ricchi e quindi è giusto che qualcosa, cioè in realtà siamo un po' alla canna del gas, però questo non attiene alla determinazione della ricchezza ai fini tributari, attiene agli effetti delle imposte. È chiaro che tutti preferiremmo che rimanesse al 19, però è una questione politica, siamo la canna del gas e quindi si prende, lo Stato prende dove può. Le faccio una domanda, bisogna stringere la cinghia e quindi vediamo dove si può. Le faccio una domanda in cui qui contano anche gli indirizzi di pensiero, non solo quello che lei tecnicamente insegna e ci spiega. Oggi è il 15° anniversario, per esempio, della nascita del primo governo D'Alema. La mia domanda che le faccio è: ma secondo lei perché la sinistra, della destra abbiamo visto, dicevano una cosa, ha fatto un'altra sull'argomento spese, ma perché la sinistra sembra, a mio giudizio, che anch'essa abbia smarrito il fatto che sul fisco, quando si interviene, bisogna avere senso della priorità? Cioè, io capisco se uno dice c'è un paese troppo patrimonializzato, alziamo la componente patrimoniale, abbassiamo l'aliquota sui redditi e vediamo quella sui consumi cosa fare, a seconda degli effetti sull'economia reale. La mia impressione è che anche la sinistra abbia smarrito questa scelta di priorità, che invece si vede per esempio nella sinistra socialdemocratica europea. Ricordo a chi ci ascolta, per esempio, mi ha molto colpito ieri nell'incontro preparatorio per la grande coalizione tra SPD e CDU-CSU, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'SPD ha rinunciato a chiedere aumenti delle aliquote marginali sui redditi in Germania, chiede altre cose, abbiamo visto il salario minimo orario. Perché secondo lei c'è davvero questo smarrimento del senso della priorità e quindi si continua a prendere dove si può fiscalmente? Beh, la politica, noi siamo abituati troppo a immaginarcela come onnipotente, e anche la sinistra è abituata a pensare che la politica sia onnipotente. Qualsiasi cosa si dice, c'è un problema politico, ma se c'è la volontà politica questo si può fare. Balle! Qui c'è un limite alla politica connesso a chi va a fare l'esattore delle imposte. Perché le imposte si chiamano imposte? Perché qualcuno le impone. Non le imponi con la gazzetta ufficiale scrivendo quelli con la barba devono pagare, cioè ci vuole uno che vada lì. Dove non arrivano le aziende a fare da esattori del fisco, non, cioè i sostituti d'imposta, perché sono le aziende a fare il lavoro sporco per conto dello Stato. L'azienda è un'organizzazione, non è il pasticcere. Chi chiama, certo, chi chiama l'azienda, certo, pasticcere, cioè pasticcere l'azienda, non ha capito niente. Quando quelli di Confcommercio, che pure devono fare il loro mestiere, va bene, dicono noi rappresentiamo il 95% delle aziende italiane, stanno ciurlando nel manico, quelle non sono aziende, sono lavoratori e il reddito di lavoro, lì non c'è la rigidità amministrativa che ti consente di fare al fisco, di chiedere le imposte attraverso di te. Allora, dove non ci arrivano loro, non ce va nessuno. Per questo la patrimoniale non si riesce a fare, perché non c'è nessuno che poi la può calcolare, dove si poteva fare si è fatta, sui conti bancari, quindi si dice a tutti quelli che hanno il conto titoli. E infatti glielo aggraviamo. La banca prendi gli soldi. Glielo aggraviamo quest'anno ulteriormente. Ma come fai a tassare il signor del vecchio per il valore di Luxottica? Capito? I primi, quando si dice i primi 10 capitalisti italiani hanno un patrimonio uguale a quello dei primi 8 milioni di cittadini, non è giusto, bla bla bla. A parte che non sono soldi nel cassetto, certo, no? È il valore dell'azienda. Ma chi glielo tassa? Ci vorrebbe uno del fisco. Ma allora domanda, un modello costruito decenni fa sull'idea che il paese evolveva verso aziende sempre da piccola a media, da media a grande, quindi il sostituto d'imposta era un pilastro fondamentale, un paese invece che ha il record per milioni di lavoratori autonomi e piccolissime unità di produzione del reddito, quindi come dice lei, non imprese, non bisogna cambiare il pilastro rispetto al sostituto d'imposta? No, il pilastro del sostituto d'imposta va sempre bene, anche perché anche un'azienda con 10 dipendenti, il sostituto d'imposta inizia a farlo, poi magari li paga in nero, ma già è abbastanza grande da farlo, e che va integrato dove le aziende non arrivano, cioè finché le aziende arrivano noi ci mettiamo sulla Gazzetta Ufficiale, scriviamo le cose più assurde e tanto qualcuno le fa. Dove c'è il pakistano col transit, bisogna che qualcuno si rimbocchi le maniche e dica scusi, ma lei ce l'ha la partita IVA, bisogna controllare il territorio, invece noi facciamo il tutoraggio a quello che le aziende dichiarano andando a cercare il pelo nell'uovo sul regime giuridico, reinterpretando coi processoni verbali. Esatto, e lì otteniamo poco o niente. Sa quelle cose, esatto, no? Allora io la devo ringraziare perché siamo in chiusura, ma lo faremo tornare al professor Lupi nel corso dell'esame della manovra in Parlamento. Grazie a voi, continuate su Radio 24, appuntamento a domani.